Europa 24. Buongiorno da Claudia Vanni e dalla redazione di Radio 24. Riflettori ancora puntati sulla Grecia. Oggi il voto del Parlamento di Atene sulle riforme richieste dall'Europa in cambio del pacchetto di aiuti da 86 miliardi di euro. Si tratta del terzo salvataggio. Siriza, il partito del Premier, si frantuma. Il governo otterrà il sì all'accordo probabilmente grazie ai voti delle opposizioni. Critico Varoufakis, l'ex ministro dell'economia ellenica, che parla di golpe come il 1960. Stavolta non hanno usato i carri armati, ma le banche, dichiara Tsipras controbatte. Essere un eccellente studioso non significa essere un buon politico, ha detto il leader di Siriza ieri sera in un'intervista sul primo canale pubblico greco. Με δύο εναλλακτικές λύσεις πάνω στο τραπέζι. Τη συμφωνία με αυτούς τους όρους ή την άτακτη χρεοκοπία. Abbiamo avuto due alternative sul tavolo, un accordo con requisiti specifici o la bancarotta e abbandono della zona euro, ha accusato Tsipras. Ho firmato un testo nel quale non credo, ma non c'erano alternative, ha ammesso. Ora l'Europa attende. Facciamo il punto nel servizio. È con il fiato sospeso che i creditori della Grecia aspettano il voto del Parlamento ad Atene sulle prime riforme economiche necessarie per ottenere nuovi urgenti aiuti finanziari. C'è molta prudenza sulle prospettive nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Gli ostacoli politici e anche finanziari a un terzo programma di aggiustamento economico non mancano, a cominciare dai dubbi politici in Grecia. Nel frattempo, i paesi della zona euro stanno negoziando un difficile prestito ponte a favore del paese mediterraneo. L'ammontare dovrebbe essere di 7 miliardi di euro, anche se da qui a metà agosto il paese ha bisogno di almeno 12 miliardi di euro. La Commissione europea ha confermato oggi che non mancano i problemi tecnici e politici per organizzare questo prestito ponte. L'esecutivo comunitario ha proposto di usare un fondo noto con l'acronimo inglese IFSM, che dovrebbe essere ufficialmente riservato all'Unione europea e non dovrebbe essere usato per questioni legate alla zona euro. Il negoziato è avviato e la speranza è di trovare un accordo al più presto. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Cambiamo pagina. Europa decisiva nello storico accordo sul programma nucleare iraniano firmato ieri a Vienna dal gruppo 5+1, composto da Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito più Germania, con l'Iran appunto. Successo per l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Federica Mogherini, moderatrice del negoziato. It's not only a deal. It's a good deal. And a good deal for all sides. Non è solo un accordo, è un buon accordo, dichiara la Mogherini poche ore dopo la firma, per tutte le parti, per la comunità internazionale, rimarca. Teheran si impegna a non arricchire l'uranio oltre la soglia fissata per almeno 15 anni e permetterà i controlli agli impianti da parte dell'Agenzia per la energia atomica. In cambio, stop delle sanzioni che consentiranno di scongelare i capitali iraniani bloccati all'estero e soprattutto di aprire il paese al mercato internazionale. Ci spostiamo a Belgrado. La porta dell'Unione Europea è aperta per la Serbia e per gli altri paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, in un incontro ieri nella capitale serba. Questi momenti della contrattazione, e in questa sede ha detto le strutture europee, ha aggiunto, appoggiano la politica regionale di pace e stabilità perseguita da questo paese. La Serbia ha avviato il programma di riforme richiesto e sta attendendo l'apertura dei primi capitoli negoziali con Bruxelles. Stamattina incontro tra Schulz e il presidente serbo Nikolic e il premier Vucic. Veniamo all'Italia. Via libera della Commissione dell'Unione Europea ai programmi operativi regionali 2014-2020 di Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. Approvati anche i programmi nazionali città metropolitane. Il totale complessivo di aiuti sbloccati è di 2 miliardi e 17 milioni di euro. Ricerca, innovazione, sostegno alle piccole e medie imprese, agenda digitale. Sono questi i principali capitoli di investimento. Luce verde anche al programma rurale della Lombardia per oltre 1 miliardo di euro. Più in generale 10 i programmi ancora da approvare, 2 le regioni in ritardo, Calabria e Campania. Per quest'ultima preoccupazione della Commissione, che chiede una sollecitazione a livello nazionale. È tutto per questa edizione di Europa 24, grazie alla regia di Paolo Corleoni. Prossimo aggiornamento dall'Europa con effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.